OpenCast Alpha, una puntata registrata in ambiente cacofonico. Stiamo registrando direttamente dalla sede. Siamo assedati, esattamente. Infatti sentirete un po'. Sentirete magari un audio non bello come al solito, perché tu mi insegni che di solito è bellissimo. Bello assai. Esatto. Io sono assedato. C'è un po' d'eco, eco. Va bene, intanto che fuori si festeggia Halloween. Allora ragazzi, questa è la puntata numero... Si è bloccato... Niente. 30. 30? 30. Addirittura? Ragazzi, è stata dura, eh. È la puntata 30. Siamo arrivati fino a qui. Però ce l'abbiamo fatta, dai. È pazzesco le volte. Non è stato facile, eh. Ci abbiamo messo del nostro. Va bene, allora, mentre fuori si festeggia Halloween, noi per fare qualcosa di veramente pauroso abbiamo deciso di fare questa puntata di Opencast, di mettere dei pezzi di musica, tutta musica libera da Giamendo, ma a caso. Abbiamo aperto la nostra collezione di musica. Completamente a caso. Anche di quelle che non vi abbiamo mai fatte sentire perché c'era un motivo, e abbiamo scelto a caso, per cui non si sa che cosa vi faremo sentire. Non dire nostra collezione, è mia. La tua collezione, giusto? La sua collezione. Non è l'unica collezione che ha. No, non infatti, è che se ne esce fuori Lady Gaga. No, difficile, da Giamendo è difficile. È molto difficile. È molto difficile. Ce n'è di schifezza, ma a quei livelli no. Quello che vi abbiamo fatto sentire in apertura erano gli Amity in Fame con una canzone dal titolo allegro, Dinner for One. Spacca di vero. Bene, quindi iniziamo quello che vuoi. Iniziamo dire. Brutali, rotoliamo le notizie. Vai. Allora, io le arrotolo. Vai. Ubuntu 14.04. Questa faceva paura, però. Sono avantissimo. È per Halloween. Vi faremo ancora più paura. Entreremo in tutti i vostri dispositivi, telefoni, tablet, televisori, mutande. No, mutande. Scusa. Mutande pazze. 14.04. Cioè, una cosa che non si sa ancora se finirà il mondo, per cui... Allora, ci hanno messo un po' a fare Unity. Lasciagli del tempo per migliorarsi. Una ventina d'anni. Vabbè, ma il progetto è abbastanza ambizioso. Portare Ubuntu su tutti i dispositivi armati, su tutte le cose che possono avere una ROM, e tipo la lavatrice, il forno microonde, il frigorifero. Veramente, cioè, tu immagina, pilota, abbiamo installato un nuovo sistema operativo. È Ubuntu 14.04. Ah! Il Boing che percita. Comunque è abbastanza triste, perché una volta queste battute si facevano con Windows installate. Cioè. Eh sì. Abbastanza triste. Tu immagina. Hai cercato New York. Vuoi un libro su New York? No, io vorrei atterrare a New York. Tutto vuoi, potenziato da Apple Maps. Vuoi un film su New York? No, Amazon, hai rotto! Va bene che è Halloween, ma non esageriamo. Questa faceva paura. Non esageriamo con la paura. No, comunque vogliono portare questo bel sistema operativo. Questo sistema operativo su questi dispositivi ARM. E per questo, per carità, pregio e tutto il resto. Però pregio, no, non dimentichiamo gli ultimi problemi che sta avendo Ubuntu con l'ultimo rilascio, la 12.04, e i suoi legami, diciamo, con Amazon e altri distributori di prodotti vari, servizi vari a pagamento. Ma mi sembra che l'avevano tolto, non l'avevano tolto? No. No, l'hanno rimesso. Allora, l'hanno rimesso e adesso c'è il problema che si dice che i dati che passano dal nostro computer ai server Amazon, anzi ai server Ubuntu, sono in HTTPS. Ma le risposte di Amazon, immagini, menate varie, sono con connessioni normali. Per lei in HTML. Qualcuno si può attaccare e vedere che tu, per esempio, invece di lavorare, stai cercando pornografia. Per esempio. Va bene, ma per il 2013 invece che cosa ci aspetta? Ragazzi, allora, se nel 2014 noi vedremo Ubuntu su tutti gli ARM, televisori, qualunque cosa, per il 2013, diciamo, la versione 13.04 come minimo andrà sul Nexus 7. Direi che ci sta. Ci sta. È un inizio. Sul Nexus 7. Stanno sbarcando gli ubuntiani. Sbarcano. Che cosa ne pensa il nostro uomo di DistroWatch? Direi che la cosa è abbastanza inquietante. Ci sono molte altre distribuzioni che sono molto interessanti e stanno prendendo piede, come ad esempio, una cosa che non abbiamo ancora citato, Body Linux. Ma la non l'abbiamo mai citata. L'abbiamo già citata, ma non gli ultimi sviluppi, che Body Linux è arrivato nella nuova incarnazione, disponibile per piattaforma ARM. In particolare è stata sviluppata per il nostro amichevole Raspberry, con una distribuzione dedicata. Raspberry Pi Forever. Nonché per l'altro netbook che noi conosciamo benissimo. Fica. Va bene, direi a questo punto, visto che Halloween è una puntata speciale, mettiamo più musica anche se a caso, partiamo subito col prossimo pezzo, quando torniamo il nostro ospite speciale ci parlerà assolutamente di una cosa che gli sta molto a cuore, così la musica. Sta cercando delle scarpe su Zalando. Lo sapevo io che non dovevamo invitarlo questo. Love is not a Drunk Souls con Pain of Life, un altro titolo molto allegro dalla raccolta di brani di Tullio, che qui con noi ci spiegherà perché tutta questa tristezza nella sua raccolta di brani. Era un periodo in cui ero triste. Ci facevamo. No, così non è bella. Così non è bella. Awkward. Situazione improvvisa. Non è proprio bello. Il nostro ospite misterioso che ci vuole dire una notizia che gli sta a cuore, che è venuto apposta fin qui, noi apriamo i microfoni anche per queste cose. Ok, direi che abbiamo esagerato abbastanza, nel senso che Android 4.2, ragazzi, è uscito 4.2. Ma quindi, poi torna? Sì, tornerà sicuramente un'altra versione, tra un po', non si sa quando. E supporto multiutente, infatti per la prima volta su Android sarà possibile switchare da un utente all'altro, quindi in famiglia, se avete la figlia o il... un telefono sostanzialmente utile sul tablet, vabbè, insomma, sull'utilità stendiamo un velo anche non pietoso, però talvolta potrebbe essere anche utile, insomma. Poi la scrittura a gesti, un simile swipe. Non so se avete presente sui vostri tablet o sugli smartphone. È quello che posso scrivere senza schiacciare i tasti solo passando il dito. Bravo, bravo, esatto. Passo, cioè, il dito sulle lettere. Puoi scarabocchiare sulla tastiera e ti viene fuori scritto qualcosa. Quello che fanno già alcune app, però. Sì. A me funziona, sì, di brutto con le parolacce. Quella è la scrittura a gestacci. Non è facile fare le corna, quelle cose lì, eh. roba da amati. Comunque, swipe. Poi il prossimo potrebbe essere una bella... Dunque, il wireless display, esatto, supporto wireless display. Quindi, in pratica, sarà possibile visualizzare i contenuti dello smartphone oppure del tablet su una qualsiasi TV HDMI. Infatti, basta collegare un adattatore wireless all'HDMI del TV per poter visualizzare il contenuto che stiamo guardando in quel momento sul dispositivo. Grande ganzata. Stanno copiando le feature della concorrenza, sostanzialmente. Quando, sì, parli di concorrenza intendi COP? Non l'ho capita. Esselunga? Ah. Bennett? Chi è concorrenza? Ma ti pagano? Sì, ti pagano. Vabbè. No, infatti, giusto per sapere, perché... Va bene, e quando lo vedremo... LD? E quando lo vedremo sui nostri device, questa spettacolare... Ma è già uscito sui device dell'ultima generazione, gli ultimi quad core... Cioè, c'è ieri. Già. Sul nuovo Nexus pare che ci sia, sicuramente. E gli altri cazzi loro. E gli altri sono affaracci loro. Però, esatto, hanno già in programma il 3, cioè praticamente stanno già facendo 4-3. No, faranno una 5 così. Ma voci dicono che ci sia già un 4-3 che gira. Che vocifera. Vociferano, si vocifera. Si vocifera. E so anche il nome, la prossima release Android. Questa come si chiama? Non è detto Franco. Questa è sempre... Questa è Jelly Bean. Sempre Jelly Bean, giusto? Esatto, sì. Quindi la 4 e 3 sarà sempre... Question mark. E la domanda è... perché? Comunque... tanto per chiedersi. E dire che allora... Quando cheat, allora? No, vai, andiamo con le news. Sì, vai pure. Andiamo con le news. La prima news è che, come tutti voi ben saprete, HP aveva fatto di fare un sistema operativo per dispositivi mobile, principalmente cellulari, del nome WebOS. WebOS è stata una... era bello. Tu fai... io dico pazzesca. Esattamente. No, era un bel sistema operativo. Cioè, peccato che fosse supportato da un device. Il Palm. Quello dell'HP, Palm. Per forza. Vabbè, non funzionava. Cioè, è stato un colpo di tosse pazzesco, capito? Sì, pazzesco, assolutamente. E dopo hanno detto, vabbè, abbiamo fatto il sistema operativo che era figo, in realtà. Perché era tutto supportato da HTML5, JavaScript, quindi tutte le web app. E quindi era una bella idea. Peccato ci fosse un solo device, tra l'altro costosissimo, rotto e tutto quanto, vabbè. Morale, l'hanno rilasciato open. È uscito Open WebOS e adesso c'è la versione Open WebOS 1.0. Che si può provare? Che si può provare su desktop e dispositivi mobile. Su desktop? Anche su desktop. In che senso su desktop? Nel senso con un emulatore? No, o c'è un'immagine avviabile e poi ci sono anche le varie immagini VM. Quindi, nel senso un'immagine JPEG. No, JPEG, così pare. Ah, ok. Quindi posso così lanciarlo, dicono, che so, in virtual machine. Tendenzialmente sì. Buttare anche se fosse ARM. Sarebbe comunque Faiko. Sì, però. Kuemu. Ma è pacco. Non è pacco. Sì, è ci pacco. Sto giocando. È pacco. È bello. Una volta che hai il kernel, una volta che l'immagine gira. A proposito di pacchi, hanno rilasciato GNOME 3.6. È pacco. È veramente. Ma l'hanno già messo dentro. L'hanno rilasciato? Sì, l'hanno già messo dentro. Allora devo andare a casa del giornale. Disponibile per il download. Allora devo andare a casa del giornale. L'hanno già messo. Ricordiamo a tutti che qui abbiamo un piccolo fan di GNOME. Vabbè, insomma, tu usa pure le cagate che piacciono a te, io uso le cagate che piacciono a me. Si chiama Fluxbox, le cagate che piacciono a me e Enlightenment. Sai chi è che conosco che gli piacciono le cose tipo Fluxbox? Io non credo di volerlo sapere. Andiamo avanti. Allora, signori Steam. Infatti, c'è Steam. Steam è stata annunciata la beta privata di Steam per Linux. A mille utenti. Che sono gli utenti con le mutande. Con le mutande. Con i mutanti con le mutande. Anche. Assolutamente. No, la cosa interessante è che Valve, che ricordiamo è quella che ha ideato, creato e sviluppa Steam, ha detto che Linux è decisamente una piattaforma migliore per giocare rispetto a Windows 8. È vero, ma che l'hai detto tu, l'hanno detto loro. L'hanno detto loro, quindi l'ha detto Valve. L'hai visto mentre parlava? No. Valve Roulette. Valve, non sì. Valve, quella... Va bene, ho capito. Come si usa a dire chi ama la Valve? Tiri una rag. Tiri una... Va bene. In questa serata... Chi ama la Valve, tiri una... Va bene. Avete finito? In questa serata halloweeniana. Halloweeniana. Mentre fuori i ragazzini fanno dolcetto scherzetto e nessuno gli dà niente perché è una cosa veramente inconcepibile dalle nostre parti, esatto. Direi di fare una nuova pausa con un nuovo fantastico pezzo dal titolo Allegro. Spacca questo. Spacca. E niente, dopo Davide Tullio Coso. Fufi! Ci dirà delle altre cose interessanti, che proprio c'è le aline al gargarozzo. Mentre invece Geppetto continuerà a farci delle battute su Valve e i dubbi sensi. Che l'hai fatta a te, a dire la verità. Sì, ma tu continui. E io vi parlerò della Panda e dei Quad. No. Questo fantastico brano dei Cracking rubato dal titolo Marginanium, non so, no, neanche, ma Mariguan, ma da un titolo impronunciabile. Gira la ruota. Vi faremo avere il titolo 100... prossimamente. Ma perché mi serve? Che senso? Cosa il titolo? Parliamo. Certo. Vabbè, lo lasciamo sotto così intanto lo sentiamo finire ancora questi 40 secondi. Nel frattempo stavamo facendo un piccolo sondaggio qua tra di noi. Si parlava del browser preferito, il programma preferito per navigare su internet. Siccome si discuteva del fatto che Flash ormai è superato, che anche se è stato tolto dal... È arrivato tipo, secondo? Sì, anche se è stato tolto dalla... Anche di più. Anche se è stato tolto dall'App Store di chiunque. È inutile perché ormai i siti danno tranquillamente HTML5. Poi tanto chi è che usa ancora il browser? Cioè, tu per esempio che cosa usi? Io uso un packet analyzer che cattura i pacchetti che arrivano subito e li... Così. Sì, ma subito, non della tua navigazione, così. Della navigazione altrui? Sì, certo. No, i miei, leggo tutti i siti, li guardo così. I pacchetti? Decodifico tutto a mente. No, io vabbè, io usavo Netcat per andare sull'internet a vedere i siti web. Links l'abbiamo proprio abbandonato invece. Sì, sì, è troppo tecnologico. Esatto. Ci mette del suo. Quindi la domanda che vorrei porre al nostro pubblico che ci segue numeroso e che ci scrive nei commenti sul sito www.gl-com.it è: perché? Qual è il vostro forum preferito? No, browser il vostro browser preferito? Qual è il programma che usate per andare a vedere l'internet e le donnine nude? E XXX Term non vale. E ricordiamo. Però quello va bene per le donnine quello nude. Quello è XXX Term. E ricordiamo a tutti di partecipare numerosi al nostro forum. XXX Term. No, quello è un altro forum. Cacchio. Quello è un altro, quello dove sei scritto te come te. Mutande pazze. Ma tu sei moderatore. Scritto... Io modero, però tu sei un utente. Allora, parliamo di qualcosa di serio. Parliamo di cose serie. Ma serissimo. Serissimo. Alto. E prima vorrei ringraziare il nostro ascoltatore di Roma che si è fatto vivo nel forum l'altro nel giorno. Forum. E ha detto che ci ascolta. E ha detto che ci ascolta, quindi... Povero ciao. Pazzo. Ciao. Ciao, povero pazzo. Davvero. Allora, parliamo di cose serie. Stiamo diventando famosi. Scusa, io non mi ascolterei. Cioè, neanch'io, io evito di solito. Neanch'io. Okay. Cioè, nel senso, mi ascolto allora, tutti i giorni. Non è... No, no, io non mi ascolto mai quando parlo. Immagino. Allora, parliamo di cose serissime, allora. Vai. Io ho accattato questo dispositivo Android e non sapevo che cosa farmene finché non ho installato Zshell. E poi? Puzza. E poi ho avuto a disposizione mille comandi. Mille. Tipo AVK, SED. Cioè, e tu nella... Tutto. Cioè, per divertirti tu sì. Lanci AVK e SED da riga di comando su allora, Android. Allora, se no come fai a vedere Netcat? Come navighi dal tablet? La no, domanda io è, leggo, cioè. Funziona su dispositivi non rootati? Sì, questo sì. E ti interagisce col file system effettivo o è tutto in un sandbox di quelli simpaticissimi dove non ci puoi fare nulla? No, interagisce, il problema è che hai i tuoi permessi. Quindi interagisce con i file in user mode, quello esatto. Che vedo. Cioè, sì. la SD quello card. Che puoi fare. Sei un utente. Sei un utonto. Sei un utonto e quindi fai le cose da utonto. Esatto. Purtroppo. Utile. Per favore ragazzi, rootatemi sto cacchio di magari... Pathfon che non ce la faccio più. E su dispositivi rootati come funziona? È di brutto. Ma guarda, io ho un spacca. Altro. Io ho installato un altro che si chiama, non mi ricordo più. Adesso mi manca Android, Android Terminal Emulator. No, il solito. No. Io quello che è no, il solito. Un altro. Però è bello. È l'unico decente. Un altro che installa un po' di cose carine, oltre vabbè, la classica Busybox, mette anche, non so, Git e un po' di roba per sviluppo. Git? Chi? Sì. E niente, siccome è rootato, faccio un po' come cazzo mi schifoso. Pare. Faccio un po' come cazzo mi pare. Stardo. Cazzaro. Dov'è che ti dica? No, e poi comunque io volevo parlare di questa cosa. Vabbè, tu parla di hardware, io parlo di dispositivi serissimi. Pathfon 2. Lasciamo stare che mi è arrivato il Pathfon modello vecchio. Però Pathfon 2. Bel telefonino quad core che potete infilare in un tablet e trasformare il vostro dispositivo in un tablettino. Utile. Certo, dalla versione 1 alla versione 2 ha tirato via la tastiera, quindi direi quasi inutile. Cioè nel senso però, che non puoi scrivere, non c'è più la tastiera. No, il tablet 1, la versione 1 ha proprio la tastiera fisica, che quindi ti trasforma il tuo telefono tablet in un piccolo netbook. E te ce l'hai la tastiera? Arriverà, sto aspettando arriverà. Che arrivi. Sta arrivando. Sta arrivando, arriva. La vedi? È lì. È lì. Schiaccia il tasto. Ma sta a fare qua, quante batterie ha dentro? 4. Allora, la prima versione ha la batteria del telefono, quella del tablet e quella della tastiera, per un totale più o meno di facciamo 16-17 ore di utilizzo. Mentre la nuova versione ha batteria del telefono, batteria del tablet. Certo, il peso rispetto a un solo tablet è un pelino più alto. Si parla più o meno di un chilo e cento della prima versione completa. Però, cioè, vuoi mettere? Processore? Allora, il processore è un Qualcomm S4 Dual Core per la versione del Padfone, quello vecchio. Mentre un sempre Qualcomm, ma Quad Core per la versione nuova. Diciamo, è ganza come cosa la nuova versione. Il problema è, uno, il costo. Perché si parla del telefono da 32 giga di memoria più il dispositivo tablet, diciamo sui 900 euro, che non è poco. Perché hai venduto un rene, fosse solo il rene. Vabbè, dunque, l'unico problema è che non è ruttato. È vero, ruttiamo noi. Vabbè. Niente, volevo dire che potremmo fare l'ultima interruzione musicale per poi andare sul finale. Abbiamo anche l'intervento del mister Distrowatch che scalpita per raccontarci che cosa è successo nel magnifico mondo delle classifiche delle distro più usate al momento. Sono d'accordo, possiamo andare. 3, 2, 1. No, vai pure. Volevi andare da qualche parte? No. Hai detto che lanciavi un brano, io stavo aspettando il brano. Il brano non arriva e quindi vado io. No, va bene, basta. Quad Mobile Development Platform. Ragazzi, questa board qua è una board di sviluppo veramente, veramente tosta. Bene, grazie per questa tua notizia che abbiamo ascoltato con molto piacere. Ma c'era la musica? No, sono sentito proprio bene, bella, bene, bene. Guarda, interessantissima, soprattutto la parte del core, quad core. Anche secondo me era la migliore. Exynos. Secondo me la parte, quella sotto sopra, era ancora meglio. Comunque oggi abbiamo un angolo nuovo. Esatto, prima di concludere con l'angolo di Distrovoce abbiamo da inaugurare questa nuova rubrica che siamo sicuri che vi piacerà tantissimo. Abbiamo, esatto, per piacerà grandi e piccini. Di più, abbiamo navigato negli angoli più remoti dell'internet e cosa abbiamo trovato? Non vi dico cosa abbiamo trovato. Diciamo che abbiamo provato prima del Gutalax, dopodiché abbiamo navigato un casino nell'internet. Poi fango. Siamo, poi ancora una così, siamo nell'internet fino al collo. Esatto, esattamente. Va bene, e sì, l'angolo in questione è l'angolo della vignetta. Vi mostreremo per la prima volta in un tentativo di trasmissione di immagini attraverso, diciamo che noi facciamo audio, la radio 2.0. Noi facciamo una quindi radio, adesso chiudete gli occhi. Una radio multimediale. Adesso vi mostriamo questa bellissima vignetta che tra l'altro fa anche ridere non poco. È bellissima. L'abbiamo trovata su internet e abbiamo deciso di farvela vedere perché non pregiata, potevamo. Pregiata. Per un discorso di licenze l'abbiamo dovuta ridisegnare un po'. Diciamo che i colori non sono esattamente non quelli. Sono anche fedeli, però dai, si capisce. Sì, anche perché il sistema di trasmissione è un po' da sistemare. Però secondo me vi piacerà. È molto sfumato, i colori sono sfumati. Attenzione, ecco, questa è la vignetta. È sempre bellissima. È sempre bellissima. Fa sempre ridere la battuta finale. Ogni volta che la vedo, tutte le volte che la vedo, mi scompiscio. Il disegnatore è un grande. Speriamo che sia piaciuta anche a voi. Perché guardate, a noi fa veramente ridere un cifro. Sul serio, cos'è quella pozzanghera per terra? No. Qualcuno? Vabbè, lo sapevo che come al solito lo finiva così. Va bene, signori, direi che fra poco, appena riesco a togliere questo, ecco. Non era una cosa strana, devo togliere un cosa facendo, mostro. Adesso, signori, è il momento dell'angolo di Distrovoce. Buonasera, benvenuti all'angolo di Distrovoce. È un po' di tempo che non parlavo, quindi bentornati col speaker originale, perché qualcuno mi ha taroccato la trasmissione fino ad oggi. Che stai facendo tu? Quei bottoni colorati lì. Sto facendo il mio lavoro, controllo i volumi, tu parla, magari volume, dai un po' lavoro. Di, do un po' di tono. Di brivio. Do un po' di brivio. Esatto. Non di brio. No. Brivio. Sì. Apri l'amico tuo. Parole a caso, oggi l'amico musica a caso, parole a caso. Parole a caso, è Halloween tanto. Apri canale 125. Così, a naso. Bene, parliamo un po' delle nuove distro che sono uscite. È uscita tantissima roba colorata e halloweenosa. Avevate già parlato delle Ubuntu uscite tempo addietro? Guarda, abbiamo parlato di un sacco di cose interessanti, ma secondo me se ci fai un riassuntino è meglio, perché sono uscite il 14 di questo mese tutte le 12.10 delle varie Ubuntu. L'Ubuntu, Xubuntu, Kubuntu, Ubuntu, Edubuntu, Ubuntu Studio. Subuntu. Insomma, Ubuntu, tutte le Ubuntu, sono uscite le Ubuntu. L'Ubuntu pornografica? L'Ubuntu pornografica. Quella è XXXBuntu, è disponibile solo su canali privati. Comunque non c'entra nell'angolo di Distrowatch, insomma. Dateci pure un messaggio per avere, cioè, praticamente nello splash screen c'è Mark Sutterworth in mutande. Non lo voglio sapere! C'è di meglio. Che hanno schifo! Era peggio della prima vignetta hanno che volevamo mettere. Anna Montana Linux Uncensored Edition. Wow! Quello già si fa interessante. Potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante. Va bene, torniamo. Torniamo alle cose quasi serie. Allora, è uscito per tutti. Per tutti, non so, Parabola Linux. Cos'è? Per i ricevitori satellitari. No, è per gli appassionati di Bibbia, a dire la verità. Parabola Linux. Pensavo che per i catechisti. Pensavo fosse una roba per decoder avanzati. No, è uscito. È Arc based. Parabola Arc. No, non la capisco. No. Arco, parabola. Arc Linux. In quel senso. Arc ARCH, che vuol dire. Ho capito, arco, parabola. Bellissimo. Mi sembra un po' tirata per le ore. E comunque, Parabola Linux, faccio notare che è una di quelle poche distribuzioni approvate da Mr. Stallman. Bene. È approvata perché c'è solo software libero. Solo. Bene. Solo. C'è su niente. Non funziona niente, però è solo lì, tutto. Ma non è una novità, ce ne sono di distro. No, così, quelle approvate dalla Free Software Foundation sono pochine, a dire la verità. Ma tutte le Debian dipendenti sono praticamente GNU Sense, Parabola Linux, Triskelini, quella cosa da Tris. Non sono tante. E Anna Montana, sapete la pacchettizzazione? Anna Montana no, perché la pacchettizzazione di Anna Montana Linux, l'estensione della pacchettizzazione è .pack. E la verità no. È un abuso. Ah, però vabbè. E io pensavo fosse .am. Comunque, andiamo avanti, è uscita una nuova release. Scusa, HAM. Oppure HML. No, è meglio HM, mi piace di più. Vabbè, comunque, prosciutto. È uscita la nuova, l'aggiornamento della nostra distribuzione preferita, la Phoenix. Che ricordiamo a tutti essere quella micro distribuzione minimale utilissima. La nostra di chi? Nostra. Ah. Phoenix 106, la release 106, nomi molto tristi. È uscito anche una grandissima distribuzione invece, Chakra Linux 2012.10. La solita Chakra. Chakra Linux, che è quella bellissima distribuzione basata su KDE, è basata sempre su Arc se non sbaglio anche questa, e funziona, insomma, è una delle di quelle dove KDE funziona meglio, KDE 4.9.2 addirittura, quindi... Chakra... Continuando, c'è uscita la nuova release di FreeNAS, che il gruppo Linux sponsorizza al posto di Anna Montana. Esatto, la nostra distribuzione per NAS preferita. Perché chi non ha 12 giga da usare? Installalo! Pure è uscita sempre fatti prendere per il NAS. Comunque, ne abbiamo ancora 4 da dire, poi abbiamo finito. Va bene, vai. Ce ne sono un sacco, è tanto. Ma no, vabbè, diciamo quelle più succose. No, beh, quelle succose sono: è uscita Rosa Desktop 2012 Beta, che è questo Linux fatto dai russi, se non sbaglio. Comunque funziona molto bene. KDE uso anche questo. Sì, avevo visto. Per utonti abbastanza. Solo perché si chiamava Rosa. E soprattutto è uscita una nuova distribuzione, che è nella versione 1.0.0, quindi potete correre tutti a provarla. Ed è, attenzione, Linux Lite. Questa Linux Lite è stata fatta uscire per utonti più più. Sostanzialmente è una cosa super semplice, basata su XFCE, cioè, quindi già ci piace. Hatch e spin. Ma non funziona neanche il mouse. Decide lui. Funziona molto bene, e questa distribuzione è basata su XFCE, cosa molto interessante, visto che oramai tra Unity e cose brutte non si capisce più nulla. Com'è che si chiama? Questa si chiama Linux Lite. Ah, la proveremo e ne parleremo. È beginner friendly e Ubuntu based. Per i pacchetti, però XFCE. Ma è interessante come soluzione. E di altre cose basta, no, non c'è più. È uscita Puppy Linux e anche qua Zenwalk per i fanatici di Slackware. Chiudi, quindi si chiudi. Quindi è stato bello e sayonara a tutti. Non è partita proprio il jingle finale, ma è partito, è partito il jingle finale, vabbè, no, fa niente. Doveva partire il jingle, se vuoi te lo faccio partire adesso. Sì, dai. Te lo faccio partire adesso? Sì, sì. Ok, aspetta. Ah, ecco, adesso abbiamo fatto anche il jingle, siamo più contenti. Ringraziamo sempre il Gaggo per il jingle. Ho sbagliato il bottone. Succede. Se vuoi al massimo poi dopo. È quello che dici tutte le sere. Ho sbagliato il bottone, scusa. È così. Va bene, siamo giunti al termine di un'altra faticosa puntata di Opencast Alpha. La numero 30, signori, è un numero invidiabile. Invidiabile. Avere il coraggio per almeno 30 volte. 30 giorni a novembre. Con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno. Tutti gli altri affan. Va bene, allora. Mi hanno venduto? Sì. Ogni tanto mi chiedo perché continua a venire qui. E anch'io. Vi ricordo per l'ultima volta che tutte le puntate le trovate su www.gl-como.it, dove potrete commentare sul forum. Sul forum, ma anche direttamente al post. Iscrivetevi al forum e postate sul forum. Giuro che lo cancello in post-produzione. Promettimelo. Lo sai che nessuno ci crede che questa è l'ultima volta che lo dirai? No, è l'ultima volta per questa puntata. Ah, beh, facile così, eh. Vabbè. Già che ci speravo. Vabbè, vabbè. Vi ricordo altresì che tutti i pezzi che abbiamo passato sono stati scelti a caso dalla collezione di musica di Tullio, qui presente, che ha scaricato legalmente da Jamendo all'indirizzo www.jamendo.com. Francesismo. È francese. Jamendo. Sì. Jamendo. No, Jamendo, sono belgi. Jamendo. Jamendo sarebbe. Sono belgi. FDM. sono, comunque vengono da lì, per cui vengono da lì, vengono da lì. Francofoni, francofoni, dove appunto questo famoso sito francofono che è arrivato alla ribalta e propone musica liberamente distribuibile, scaricabile e ascoltabile, per cui divertitevi, divertitevi, divertitevi. C'è anche roba più bella di quella che abbiamo sentito stasera. Vi lasciamo, meno male. Vi lasciamo con un ultimo pezzo a caso, che non abbiamo la più pallida idea di che cosa sarà. Il pezzo è dei Silence Is Sexy. E il pezzo è bellissimo. 1984. Saluto a casa la mamma e tutti quelli che mi hanno permesso di arrivare fin qua. Complimenti a tutti i pianisti, perché non è facile. Painting over in black, they wake me and make me smile. Saturday morning's eye was walking on the chairs. If I could, I'd meet you there. Pictures made in 94, I can't see. Over black, they wake me and make me smile.